Buonasera cari radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il suo programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto da Bruxelles, da Annalisa, e avete appena ascoltato Dani in regia, questa sera in supporto a Giro di Boa. Buonasera Dani, grazie dell'aiuto questa sera. Dovrebbe esserci in collegamento Alessandra. Sì, buonasera Annalisa e buonasera Dani, e grazie mille per il supporto in regia. Dunque Annalisa, Giro di Boa come al solito al passo con i tempi e con l'attualità. Dunque siamo in aprile, i nostri amici radioascoltatori sapranno bene, si ricorderanno cosa successe il 6 aprile del 2009. Ci fu un terribile terremoto con l'epicentro L'Aquila, il capoluogo abruzzese, che causò la morte di più di 300 persone. A qualche mese dal sisma, le strutture totalmente inagibili o inagibili per rischio esterno erano il 32% di quelle private, il 21% di quelle pubbliche e ben il 54% di quelle che riguardavano il patrimonio culturale. Giro di Boa si è già occupato di questa tragedia l'anno scorso, ad un anno dal sisma, avendo intervistato una giornalista che aveva seguito la vicenda nei mesi successivi al terremoto e un testimone oculare. Quest'anno, a due anni dal sisma, abbiamo lo stesso testimone oculare che è ancora in collegamento con noi questa sera, che si chiama Patrizia. Patrizia, ci senti? Sì, buonasera, sono qui. Buonasera Patrizia, grazie mille per aver accettato il nostro invito di intervenire in trasmissione. Dunque Patrizia, come ricorderanno i nostri amici radioascoltatori, è aquilana. E dunque toccata in prima persona dal dramma del terremoto e dal dramma del post terremoto, insegna materie letterarie negli istituti superiori e scrive prose e poesie. Patrizia Tocci ha scritto anche alcuni libri, uno dei suoi ultimi scritti si intitola La città che voleva volare, interamente dedicato alla sua città, L'Aquila appunto. Dunque Patrizia, volevamo sapere, a due anni dall'evento, qual è la situazione a 24 mesi dal sisma? Diciamo che in questo momento L'Aquila, proseguo la metafora di questo bellissimo uccello alato, diciamo che siamo un po' sospesi tra la disperazione e la speranza. È un momento molto particolare perché in effetti la ricostruzione vera e propria ancora non è cominciata, cioè il centro dell'Aquila è nelle stesse condizioni di due anni fa, anzi per la precisione, per l'obiettività, non nelle stesse condizioni, perché sono stati fatti puntellamenti, quindi alcune case sono state messe in sicurezza, alcuni edifici sono stati abbattuti, più pericolanti, insomma diciamo una parte delle macerie sono state portate via. Però di fatto la ricostruzione del centro, e per centro forse io non riesco a spiegare bene agli ascoltatori che non conoscono la città, ma L'Aquila non ha un centro storico come si può dire per esempio il centro storico di Siena, nel senso che tutta la città dell'Aquila è un centro storico, la vecchia città medievale, quella chiusa sostanzialmente nelle mura medievali, è una grandissima città, sono chilometri e chilometri di città, in questo momento sono ancora chiusi, sono ancora in zona rossa, sono ancora interdetti alla nostra possibilità di rientrare. E soprattutto ancora non c'è stato il vero lavoro di ricostruzione, che invece è cominciato in gran parte in periferia, questo sì, nell'immediata periferia dell'Aquila e soprattutto nelle case che hanno avuto minori danni, è cominciato il vero lavoro di ricostruzione, ma la grande parte della città è ancora purtroppo un guscio vuoto e silenzioso. E tu ti stai riferendo a quel centro storico dove il 54% degli edifici che rappresentavano il patrimonio culturale della città, come citavo io nell'introduzione, sono stati danneggiati dal sisma, immagino. Ma allora purtroppo mi veniva è proprio quella di avere un centro pronto? Sì, continua pure. Sì, dicevo, la caratteristica dell'Aquila è quella di avere un centro storico con palazzi di 4-5 piani molto alti, i quali erano adibiti sostanzialmente ai palazzi storici del 500, del 600, del 700, che ancora erano completamente utilizzati ed erano in gran parte adibiti a negozi, il primo piano, il piano terra, il secondo piano c'erano gli uffici le attività, diciamo così, imprenditoriali, e al terzo piano le abitazioni. Questi edifici purtroppo adesso sono completamente vuoti, il che vuol dire che tutte quelle attività che erano al piano basso, al porticato, diciamo così, nel primo piano della città, non ci sono più, sono bloccate, sono chiuse e sono trasferite altrove. Io qui ho dei numeri, a 2 anni dal terremoto 38.057 terremotati sono ancora lontani dalle loro case. Circa 300.000 di questi, 30.000 di questi sono aquilani, soltanto 13.878 sono alloggiati nelle famose case OCSE, che sono case di nuova costruzione. 11.093 sono in autonoma sistemazione, cioè sono praticamente sparsi ancora fuori o dentro lontano dalla città. Quindi il bilancio è un bilancio per il momento ancora molto amaro. E opere di ricostruzione, soprattutto mi riferisco al patrimonio culturale che citavamo prima. Ricordo che subito dopo la tragedia del sisma la generosità internazionale si era manifestata soprattutto con promesse di finanziamenti. Queste promesse sono poi state mantenute, ci sono stati veramente dei monumenti che sono stati, per così dire, presi in carica da degli stati, per esempio, o dei governi stranieri, oppure, come dici tu, non, a livello del centro storico è solamente puntellato e non c'è niente che si muove? Allora, per quanto riguarda le, diciamo così, le adozioni internazionali, aspettiamo ancora Obama, il quale ci ha promesso, però ancora è una promessa. La Spagna si sta muovendo per restaurare il castello, una parte del castello, anche come lo chiamiamo, Forte Spagnolo. Il Kazakistan è stato uno di quelli che ha onorato per primo ciò che aveva promesso, è arrivato un finanziamento abbastanza cospicuo per la realizzazione e la ristrutturazione di Palazzo Ardinghelli di fronte a Santa Maria Paganica, e la Francia, che aveva promesso di restaurare parte delle anime sante, ancora non ha, diciamo così, adempiuto alla promessa. Il problema è che queste chiese hanno un patrimonio artistico e culturale davvero complesso da risistemare, e quindi ovviamente per il momento sono state soltanto messe in sicurezza. Noi abbiamo la splendida facciata di Colle Maggio che si è salvata semplicemente per un caso del destino, perché questa facciata era già in restauro, c'era già un progetto di restauro della facciata, e quindi la facciata era puntellata sostanzialmente, era tutta fasciata con dei elementi di metallo nel momento in cui c'è stato il terremoto, e questa è stata la ragione per cui noi abbiamo potuto salvare uno dei monumenti più belli la facciata di uno dei monumenti più belli della nostra storia, perché la parte dietro, la chiesa, la parte absidale, la parte della basilica invece è crollata, e ancora le opere di restauro ancora non cominciano. Annalisa? Sì, ho una domanda, Patrizia, una domanda da studio qui da Bruxelles. Leggevo i risultati di una indagine finanziata dalla Comunità Europea, realizzata dalle Università di Firenze, delle Marche e dell'Aquila. Con 15.000 contatti si è scoperto che per il 71% degli aquilani la comunità è morta assieme al terremoto, che il 68% vorrebbe lasciare la propria abitazione attuale, che il 43% della popolazione soffre di stress, una percentuale che arriva al 66% delle donne. Per le donne il 73% denuncia una totale mancanza di posti di ritrovo per la comunità, il 50% l'assenza di servizi essenziali. Patrizia, vorrei tornare in particolare su questo dato, il 73% denuncia una totale mancanza di posti di ritrovo per la comunità. Se non ci sono, appunto, se mancano questi luoghi di ritrovo, come ricostruire la comunità? Ti vorrei chiedere un commento su questo, e anche un commento da parte tua come insegnante, sei insegnante nelle scuole superiori, come i ragazzi vivono questa situazione? Allora, proviamo a distinguere, anche se è assurdo perché siamo tutti cittadini, ma la distinzione era fatta per categorie. Noi diciamo che gli adulti in questo momento, una parte degli adulti dell'Aquila vivono praticamente nelle case, cioè vivono praticamente una situazione di grande isolamento. E i ragazzi hanno più o meno ricostruito un minimo luogo di incontro sociale in una specie di viale dove sono sorti piccoli pub, ma è tutto molto così lasciato alla buona volontà e all'iniziativa dei singoli. Voglio dire, non c'è un piano, non c'è un progetto, per il momento non ci sono realizzazioni vere nel vero senso della parola. La scuola sta cercando di, io sono un insegnante, quindi ovviamente anch'io, come dire, subisco e vivo in, probabilmente un po' al fronte questa situazione. La scuola sta cercando di diventare una scuola aperta, cioè di mettere a disposizione i laboratori musicali che per esempio ci sono stati donati, tutte le possibilità che i ragazzi hanno di fare scrittura creativa il pomeriggio, laboratori teatrali, laboratori musicali, però è ovvio che lo spazio della scuola non è mai uno spazio sociale nel senso autentico del termine, cioè è chiaro che i ragazzi avevano i loro luoghi, i loro spazi. Questo è un grandissimo problema perché gli anziani hanno completamente perso qualsiasi tipo di socializzazione, ma anche gli adulti. Noi siamo una città, io prima di questo evento non ero assolutamente una persona che usava le nuove tecnologie, in particolare Facebook. Noi aquilani abbiamo imparato a far diventare Facebook la nostra piazza. Questo vi farà sorridere, però noi ci sentiamo spessissimo e ci colleghiamo perché abbiamo bisogno comunque di mantenere tra di noi un gruppo di persone abbastanza vasto, insomma, un minimo di socialità, un minimo di incontro, e ci incontriamo all'Aquila. Ci sono due luoghi in particolare, un ex asilo che è stato occupato da alcuni comitati, in particolare il 332, che funziona un po' come punto di aggregazione per i più giovani, e poi c'è un tendone che dopo numerose e pressanti richieste è stato ricollocato a Piazza Duomo, ed è un tendone dove la popolazione cerca di fare quel minimo di attività di incontro, assemblee, dibattiti, incontri vari che sono in questo momento importanti perché si stanno decidendo per la città tantissime cose davvero importanti proprio in questi ultimi giorni, in questi ultimi tempi. Però è chiaro che noi viviamo in questo momento davvero, credo, a livello psicologico, a livello individuale, un momento di effettivo di diaspora, di disgregazione nel vero senso della parola come comunità, e ne soffriamo tutti, dai bambini più piccoli che non hanno una città, non hanno luoghi, non hanno niente, ai ragazzi più grandi che hanno possibilità di muoversi maggiore, che però sono comunque confinati all'interno di spazi dove sono sostanzialmente dei fruitori, dei consumatori, non sono liberi, sono spazi bar, sono pub, sono luoghi nei quali però, come dire, non c'è la libertà di movimento che c'era prima nel nostro centro storico, che era invece un luogo di incontro, il vero luogo di incontro della città. Patrizia, un mese fa c'è stata una terribile scossa di terremoto in Giappone, a cui poi sono seguiti altri due drammi di un certo rilievo. Che cosa hai pensato e che cosa hai provato leggendo le informazioni sul Giappone a circa due anni da distanza da quanto è successo all'Aquila? Si ricollega un pochino al discorso che abbiamo fatto prima, cioè noi adesso abbiamo, credo purtroppo, una sensibilità esasperata anche dalla condizione nella quale viviamo, per cui parole come sfollati, parole come appunto sisma, parole come magnitudo, sono parole che noi ci portiamo sulla nostra pelle, che non sono parole cicatrizzate, sono parole che fanno ancora male. Io pensavo, anche qui da noi quest'anno c'è stata una primavera precocissima che tra l'altro è stata anche poi schiaffeggiata da un inverno di qualche giorno altrettanto terribile. Pensavo che anche da noi fioriscono i ciliegi come fioriscono in Giappone, e mi sforzo di vedere anch'io in questa vita che va avanti, in questa vita che prosegue, un segnale di cocciutaggine, di ostinazione, di voglia di vivere. Però certo queste file di ciliegi sono tante, sono lunghissime, e leggere quelle cifre così incredibili, così altissime, di persone che hanno perso la vita, non fa altro che pensare a quanto siamo da una parte incoscienti, secondo me, perché il Giappone è anche una terra sismica e lo sappiamo, anche loro vivono sopra i vulcani, e a quanto poco mettiamo in conto l'importanza della vita. Questo sì, questo credo che il terremoto del Giappone ce l'abbia tristemente ricordato, e questo è un problema anche qui all'Aquila, perché noi la ricostruzione la vogliamo, ma la vogliamo sicura, cioè vogliamo che questa ricostruzione nuova che dovrebbe avvenire sia però fatta secondo crismi completamente diversi da quelli del passato, perché quello che abbiamo perso è stato tanto, è stato tantissimo, e credo che ne porteremo i segni per tutti gli anni a venire. Insomma, è qualcosa che ormai ci ha segnato profondamente. Io ho degli amici che lavorano nelle strutture, nella ASL, nei centri di igiene mentale, e parlano appunto di disturbi del sonno, di disturbi della concentrazione, di angoscia, di aumento della vendita di tranquillanti, di tutta una serie di patologie che sono legate a un disagio del vivere che oggettivamente c'è. Io avrei un'ultima domanda da parte mia, poi magari c'è anche un'ultima domanda da parte di Annalisa. Volevo riallacciarmi un po' all'attualità e sentire la tua opinione su quella vicenda drammatica, in un certo senso, che è successa alcune settimane fa o alcuni giorni fa. È andato in onda su Canale 5 un programma molto, molto famoso, in cui c'è stata una signora che raccontava delle vicende che riguardavano direttamente l'Aquila, e soprattutto la ricostruzione. Una vicenda che ha seguito molte, molte critiche. Volevo semplicemente avere la tua opinione, se hai capito di cosa sto parlando. Sì, come no, io anzi vi ringrazio e ringrazio tutti quelli che ci danno la possibilità di esprimere, come dire, in prima persona quello che è accaduto e quello che è successo, di raccontare, ecco, attraverso gli occhi di un testimone, di una persona. Giustamente, che ha perso la casa, esatto, che in questo infatti momento, ti ho presentato, ecco, all'inizio, ecco, come esattamente proprio questo il problema. No, dicevo che il ti problema ho presentato è che purtroppo molto spesso sì, all'inizio come testimone oculare. Giusto pensando a questa vicenda andata appunto in onda. Questa vicenda purtroppo è un discorso molto complicato, perché in Italia l'informazione, una certa informazione, purtroppo tende a, come dire, a dimenticare alcuni problemi. L'Aquila in questo momento è stata praticamente dimenticata, noi siamo diventati una old news, una vecchia notizia che non fa più piacere a nessuno. È vero che le case sono state costruite, è vero che un certo numero di aquilani hanno avuto la fortuna e la possibilità di vivere in una casa appena realizzata, però però il problema è che ci sono delle situazioni che non vengono capite, cioè tanti aquilani ancora non hanno la loro casa, ancora non possono rientrare nella casa, e questo lo sa soltanto chi vive realmente. Questa signora che ha partecipato a questa trasmissione non è un'aquilana, è una signora che viene da noi, tra l'altro anche credo settimanalmente, a vendere dei fiori, e non conosce la nostra realtà, conosce la nostra realtà per sentito dire, e ha detto quello che si dice, non quello che è, e ci ha fatto un ulteriore danno, perché purtroppo molto spesso si tende a dimenticare i problemi, si tende a dimenticarli e a non volerli più vedere quando i problemi esistono. Io sono una di queste cittadine che non ha la villetta con garage, che vive lontano da casa sua e che spera il più possibile presto di tornarci, però so benissimo che non sarà un presto, sarà un periodo molto lungo della mia vita in cui dovrò aspettare e avere il coraggio di aspettare, non sarà così semplice. Patrizia, Annalisa da studio, avevo un'ultima domanda alla quale credo tu in parte abbia già risposto, comunque la pongo lo stesso. Noi ci eravamo sentiti appunto l'anno scorso ad un anno dal terremoto, quindi il primo anniversario, ci risentiamo adesso due anni dopo. Secondo te quindi come sono cambiati i sentimenti e le percezioni degli aquilani due anni dopo rispetto al primo anno? Leggevo un articolo che fotografava nel seguente modo la situazione: sfumate rabbia e speranza, regnano la rassegnazione e la depressione. Secondo te questa è una fotografia corretta dei sentimenti che ci sono all'Aquila? Sicuramente Certo, in gran parte corretta e forse per la gran parte delle persone, però ci sono molte persone anche che continuano a sperare, nel senso che stiamo aspettando tutti che cominci qualcosa, stiamo aspettando tutti che si possa ricominciare a ricostruire. I problemi sono tanti, sono problemi di burocrazie, problemi di ordinanze, problemi di indennizzo, problemi di contributo, problemi che adesso sarebbe così complicato spiegarli, però in questo momento secondo me effettivamente c'è un momento di grande stanchezza, soprattutto facendo i conti con i 2 anni, cioè subito dopo l'anniversario in cui si fa i conti sostanzialmente con 2 anni della nostra vita che sono passati attraverso tantissime battaglie, tantissime richieste e che però purtroppo alla luce dei fatti devono riscontrare in questo momento un momento di sosta, un momento di stagnazione, insomma, di questo processo che tutti quanti invece vorremmo vedere cominciare, almeno cominciare, ecco, forse è questa questo momento di impasse molto grande per una serie di ragioni complicatissime che non è semplice spiegare, però di fatto la ricostruzione è al palo e questo ovviamente allontana l'orizzonte, allontana la possibilità di vedere una speranza, insomma, ecco, un segno concreto di cambiamento. Patrizia, siamo arrivati in conclusione al tempo che possiamo dedicarti, ti auguriamo un grosso in bocca al lupo e soprattutto la forza a te e ai tuoi concittadini di vedere la luce in fondo al tunnel, perché questo è quello che dovete sperare e ambire. Grazie, io lo prendo davvero di tutto cuore questo augurio e spero di poterne fare davvero buon uso, insomma, io ho deciso che il tempo che mi resterà sarà dedicato a questo e continuo in questa impresa piccola per la mia vita, ma una grande impresa per il mio sogno, la mia speranza e quella, penso, di tante altre persone che vorrebbero vedere questa città tornare ad essere, non dico quella che era perché già questo è un sogno, ma insomma vederla di nuovo vita come era prima. Grazie mille per il tuo tempo, Patrizia. Grazie mille. Grazie Patrizia, anche da Annalisa dallo studio di Bruxelles, un augurio di cuore per il futuro. Grazie. Grazie a tutti voi e un augurio di buon lavoro. Grazie, buona serata. Annalisa, annunciamo la pausa musicale a questo punto, direi. Sì, facciamo ora una pausa musicale e poi ritorneremo in onda con la seconda parte di Giro di Boa e il secondo tema della serata. Eccoci di nuovo con un Giro di Boa. Grazie Dani, il nostro regista di questa sera. Cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. E ritorniamo quindi in onda con il secondo tema di questa serata. Ora parleremo del dramma che sta vivendo il Giappone dallo scorso 11 marzo, quando la parte nord-orientale del paese è stata colpita prima da un violento terremoto e poi da uno tsunami. Come tutti sapete, questo ha fortemente danneggiato la centrale nucleare di Fukushima, il sistema di raffreddamento della centrale nucleare in seguito del sisma si è interrotto, facendo aumentare la temperatura all'interno dei reattori e causando, per effetto dei problemi conseguenti, la fuoriuscita di radiazioni. L'Agenzia per la sicurezza nucleare e industria del Giappone ha alzato da 5 a 7 il livello di gravità della crisi nell'impianto nucleare, che è ora lo stesso di quello del disastro di Chernobyl del 1986. Di questo, delle implicazioni sul ruolo dell'energia nucleare in Europa e del dibattito in Italia in vista del prossimo referendum in giugno, parleremo con questa sera con la nostra ospite. Nostra ospite di questa sera è Monica Frassoni, che è già stata ospite a Giro di Boa diverse volte. Buonasera Monica e bentornata ai nostri microfoni. Buonasera. Buonasera Monica Frassoni, dal 2009 presidente del Partito Verde Europeo, formato da 32 partiti ecologisti europei. Monica è stata membro del Parlamento Europeo per 2 legislature, dal 99 al 2004, dal 2004 al 2009, e al Parlamento Europeo dal dicembre 2001 a giugno 2009 è stata presidente del gruppo dei Verdi Alleanza Libera Europea. Monica, ancora buonasera, bentornata a Grazie mille. Direi di partire da quanto i leader europei hanno deciso lo scorso 25 marzo, decisione di procedere ad una serie di test per verificare gli standard di sicurezza nelle centrali nucleari in Europa. Il commissario per l'energia Oettinger ha dichiarato che lavorerà sui dettagli di questo piano che verrà messo in pratica nei 13 paesi UE, 13 dei 27, dove sono presenti centrali nucleari, ci sono 143 reattori nucleari. Ecco, Monica, le vorrei chiedere se può spiegare ai nostri radioascoltatori in che cosa consistono questi test nel dettaglio. Ma in realtà fino adesso la Commissione europea, in particolare il commissario Oettinger, ha semplicemente deciso di avviare questi test consultando le imprese nucleari, cioè le ha convocate e ha detto: mi piacerebbe sapere da voi quali dovrebbero essere i criteri per fare questi stress test, che hanno l'obiettivo di valutare se in caso di fenomeni estremi come terremoti, blackout o altri eventi meteorologici o di altro tipo, terrorismo eccetera, la resistenza dei reattori nucleari europei è all'altezza di quello che ci si, insomma, per garantire la sicurezza del territorio e dei cittadini. E immediatamente noi vediamo che c'è un problema, perché se io chiedo a colui che deve essere controllato di dirmi come controllarlo, è evidente che la garanzia che questo controllo sia serio e abbia una capacità di davvero funzionare è limitato. Bisogna tenere in considerazione, tra l'altro, che l'idea di questi stress test è nata per rispondere naturalmente alla preoccupazione dei cittadini, dell'opinione pubblica, ma anche del mondo politico dopo il disastro di Fukushima, in un momento però dove ancora si pensava che dopo qualche settimana questo problema sarebbe stato ovviamente non riassorbito, perché questo non è possibile, ma un po' meno grave, e che si potesse dire che si stava avviando, non dico a soluzione, ma comunque al riassorbimento. E dunque l'idea del commissario, ma anche e soprattutto delle imprese che hanno una lobby molto presente, molto forte qui a Bruxelles, è stata semplicemente quella di dire: noi assicuriamo che da qui alla fine dell'anno facciamo questi stress test, che se uno deve considerare cosa è successo con gli stress test delle banche, diranno che o va bene o la situazione è sicura, oppure bisognerà fare degli adattamenti su alcuni dei reattori, oppure si deciderà di chiudere alcuni dei vecchi reattori tra qualche mese, ma una volta che l'agitazione dell'opinione pubblica si sarà un po' riassorbita, si potrà tranquillamente continuare con i piani di rilancio o di ritardo della chiusura delle centrali, o addirittura appunto di rilancio dei progetti nucleari. Nella testa di, perlomeno questa è la mia interpretazione, nella testa di coloro che hanno proposto all'inizio questi stress test c'è sicuramente questo atteggiamento, cioè l'atteggiamento di dire: facciamo degli stress test, magari adattiamo alcuni reattori a una situazione, cioè aumentiamo la sicurezza, quindi spendiamo un po' di soldi pubblici per aumentare la sicurezza di questi reattori, e poi business as usual, o continuiamo, come è stato deciso in Germania e in Belgio, la vita dei vecchi reattori nucleari, ritardando quindi l'uscita dal nucleare, il phasing out dal nucleare che è stato già deciso sia per la Germania che per il Belgio, e per quanto riguarda gli altri paesi tipo l'Italia continuiamo tranquillamente con i piani di reintroduzione del nucleare, o per quanto riguarda il Regno Unito, di costruzione di nuovi reattori. Monica, volevo riallacciarmi a quanto appena detto e soprattutto a quanto ha citato Annalisa nell'introduzione, cioè al referendum in Italia e alla decisione, dunque il referendum che, come sappiamo, è stato promosso dall'Italia dei Valori, che chiede ai cittadini di esprimersi sull'abrogazione del decreto legge che permette la costruzione di centrali nucleari sul territorio italiano. Quale risultato prevedi ora, e soprattutto visto che giustamente Fukushima, lo citavate voi prima, è successo un mese fa, ancora adesso non si sanno bene quali sono i danni, quali potrebbero essere i danni, se sono quantificabili o meno. Dunque ti vorrei chiedere: qual è secondo te il risultato, quale sarà il risultato del referendum ora dopo Fukushima, e quale poteva essere il risultato senza Fukushima? Ma dunque, prima di tutto io non ho la bolla la palla di cristallo, quindi ovviamente non so come andrà il referendum. Posso soltanto dire che la sensibilità dell'opinione pubblica con o senza il referendum, perché anche se il referendum non dovesse passare, vedremo questo, il punto vero è che l'accettazione sociale della costruzione di una centrale nucleare in qualsiasi luogo del territorio italiano mi sembra quantomeno problematico, quindi questo è un elemento che non bisogna assolutamente sottolineare, non bisogna assolutamente dimenticare. Però insomma, detto questo, è evidente che la campagna, l'interesse del governo italiano ridurre al massimo il dibattito intorno a questo referendum, e devo dire che tutto il baccano che si sta facendo intorno al tema dell'immigrazione, dell'emergenza dei tunisini, piuttosto che del ruolo del tema dell'Unione Europea, piuttosto che dei processi del primo ministro, evidentemente non mettono assolutamente, ormai il tema della centrale di Fukushima non entra assolutamente nei telegiornali, che come sappiamo è quello che la maggioranza schiacciante degli italiani vede per informarsi, dato che veramente c'è pochissima gente che legge i giornali e comunque nelle trasmissioni di approfondimento, siano esse di destra o di sinistra, questi temi praticamente dopo i primi giorni sono praticamente scomparsi. Quindi è chiaro che dal punto di vista dell'informazione dell'opinione pubblica la questione di Fukushima è molto molto molto molto meno presente che in altri paesi, e questo non è innocente, cioè io sono convinta che la campagna di informazione che c'è stata nel 1987, dove c'era proprio una grande passione anche intorno a questa discussione, tutti ne parlavano eccetera, nonostante Fukushima sarà difficile da ricreare nel nostro paese. Questo però non significa che esiste una situazione di accettazione passiva, come pareva esserci qualche mese fa, rispetto alla possibilità della reintroduzione dell'energia nucleare in Italia, salvo naturalmente che nel momento in cui si fossero decisi i luoghi dove queste centrali si sarebbero dovute costruire, che era, sono sicura che ci sarebbe senz'altro stata una reazione. Quindi in sostanza io non so che cosa succederà al referendum, noi stiamo lavorando attivamente anche come Verdi Europei e con il gruppo al Parlamento Europeo per questa campagna. Penso che ci sia un interesse chiaro del governo italiano a ridurre al massimo il dibattito intorno a questo tema, e penso anche che questo comunque non servirà a facilitare la reintroduzione del nucleare in Italia. Cioè, io so, mi è capitato di discutere con persone che rappresentano l'Enel in modo del tutto informale, e alcuni di loro sono convinte che tutto proseguirà come se niente fosse successo. Io penso che si sbagliano completamente. Monica, vorrei tornare sull'Unione Europea e chiederti, secondo te, quali saranno le implicazioni per la politica energetica dell'Unione Europea? Il commissario per l'energia ha parlato di una revisione dell'attuale obiettivo UE del 20% dell'uso di energie rinnovabili entro il 2020, la Commissione dovrà poi si appresta ad annunciare in autunno una roadmap sulla politica energetica per il 2050. Ecco, ti vorrei chiedere, secondo te, quali le implicazioni della tragedia giapponese su quanto ci possiamo aspettare in termini di politica energetica a livello di Bruxelles. Penso che questo sia il momento giusto, il momento importante per continuare a premere, anzi farlo sempre di più, sia dal punto di vista delle associazioni che dei cittadini che anche delle imprese, per un cambio radicale del paradigma energetico in Europa. Penso che questo sia il momento propizio, perché il commissario credo stia veramente traballando nelle sue convinzioni. Oettinger è un signore che vive in che viene dal Baden-Württemberg della CDU, che ho sentito parlare in varie occasioni, non ha mai dubitato della bontà del nucleare, pensava che molti soldi dovessero essere spesi in ITER. Dopo Fukushima ha in qualche modo cambiato il tono, e non credo che questo sia stato soltanto dovuto all'adattamento in qualche modo che la signora Merkel ha fatto nel suo partito e nel suo paese per cercare di rispondere alla cosiddetta onda verde. Penso che ci sia un elemento di dubbio vero, e questo naturalmente può comportare o un atteggiamento più tollerante nei confronti dei produttori di carbone, che adesso si fanno avanti dicendo investite tanto nel carbone cosiddetto pulito, cioè nelle tecniche di sequestro del carbonio, quello che mette insomma in fondo alla terra, oppure potrebbe significare una sua decisa conversione dal punto di vista per esempio dell'efficienza energetica, oppure appunto delle rinnovabili. Lo sforzo che ci deve essere da parte di tutti noi è proprio questa seconda strada, perché tanto per fare un esempio, nell'ambito della discussione del piano dell'energia sull'efficienza energetica che è stato presentato l'8 di marzo, quindi 3 giorni prima della tragedia di Fukushima, non c'era traccia di obiettivi vincolanti a livello europeo, e anche le proposte che venivano fatte dalla Commissione erano decisamente mollicce. Penso che se il commissario avesse fatto questo piano dopo l'11 di marzo, magari alcune cose le avrebbe migliorate, e noi speriamo che le direttive che proporrà fra qualche settimana su questi temi potranno essere effettivamente rinforzate. Quindi in sostanza penso che adesso siamo in un momento che può essere un momento importante per fare uscire un po' di audacia da una commissione che almeno sul piano energetico, e non solo temo, si è completamente adeguato alla maggioranza schiacciante degli Stati membri che non vuole avanzare su questi temi. Quindi penso che l'effetto Fukushima è stato molto forte, ma anche proprio sulle convinzioni personali del commissario, cosa che dobbiamo assolutamente cercare di sfruttare e di portare a frutto. Quindi Monica, in conclusione un'opportunità per rilanciare maggiori azioni e maggiori sforzi nel campo delle rinnovabili. Sì, ma non soltanto nel campo delle rinnovabili. Le rinnovabili sono ancora comunque un elemento che diciamo così, di produzione di energia. Noi dobbiamo risparmiare energia, e oggi ci sono una quantità incredibile di tecniche per fare questo, tecnologie per fare questo, che sono non soltanto interessanti, ma sono anche belle, divertenti e che possono essere applicate da chiunque. In questa settimana, lo sappiamo, si è conclusa oggi la settimana sull'energia sostenibile, e che era concentrata sugli effetti dell'efficienza energetica, e io ho visto delle cose veramente strabilianti da questo punto di vista, dei vetri, delle coperture di vetri con delle specie di film che riducono in un modo incredibile sia l'effetto spiffero che l'effetto serra, delle applicazioni per il riscaldamento piuttosto che per la riduzione dell'acqua, piuttosto che per la riduzione dei consumi del tuo computer, veramente incredibili. Insomma, penso che la riduzione ed è stato detto che semplicemente la realizzazione degli obiettivi dell'Unione Europea nell'ambito dell'efficienza energetica ci permetterebbero di risparmiare qualcosa come 98 centrali nucleari tipo Fukushima. Quindi insomma penso che ci sia un cantiere abbastanza appassionante per permetterci di lavorare veramente bene nei prossimi mesi, se riusciremo a convincere i decisori politici e quelli che devono fare le leggi. Monica, siamo purtroppo in chiusura, ti dobbiamo salutare, ti ringraziamo ancora una volta per il tuo interessantissimo contributo. Grazie. Temi che sicuramente a Giro di Boa abbiamo seguito in passato, stiamo seguendo e continueremo a seguire, soprattutto in vista del referendum che ci sarà in Italia. Grazie Monica e buon lavoro. A presto. Arrivederci, a presto. Ciao. Buon lavoro, a presto. Grazie. Annalisa. Sì, niente, volevo semplicemente dire a beneficio dei nostri amici radioascoltatori che questa era un'opinione sul nucleare. Come dicevi giustamente tu in apertura, il referendum sarà il 12 e il 13 giugno, dunque a Giro di Boa cercheremo di avere anche un ospite che magari vede la cosa da un altro punto di vista. Chi lo sa? Abbiamo ancora tempo fino al 12-13 giugno. Assolutamente, che a giro di boa per ciascun tema cerchiamo sempre di dare, di fornire ai nostri radioascoltatori prospettive, prospettive differenti, quindi sicuramente avremo l'opportunità di continuare a seguire questo, questo tema e avere anche l'opinione di chi invece sostiene l'energia nucleare e le opportunità che essa presenta. Bene, non ci resta che dare l'appuntamento ai nostri radioascoltatori a questo punto dopo la pausa pasquale e ritorneremo ai microfoni di Giro di Boa il prossimo 28 aprile. A risentirci quindi a quella data. Arrivederci. Buona serata a tutti. Noi siamo i froci, siamo gli ebrei, palestinesi dell'intifada, siamo barboni lungo la strada, siamo le zecche comuniste, noi non siamo anarchici, noi siamo spastici. Onde corte, un giro nell'Europa del sociale. Sporchi ma buoni, che tette in sintesi significa coglioni, noi siamo i negri meridionali. Buonasera agli ascoltatori di Onde Corte, abbiamo ospite in trasmissione, dopo aver parlato la settimana scorsa di immigrati con Gabriele Del Grande, un'altra persona che sempre di immigrati in un certo senso si occupa, anche se da un punto di vista diverso. L'ospite di questa sera si chiama Ariella De Gennaro e fa parte di un comitato contro le retate, contro le espulsioni e per la regolarizzazione degli immigrati qui in Belgio. Ciao Ariella, benvenuta. Ciao, buonasera. Ariella, come hai conosciuto questo comitato che per brevità chiameremo da adesso in poi CREER e come è successo che poi sei diventata attiva in questo gruppo? L'anno scorso avevo partecipato a un progetto con un'associazione belga che si chiama Quinoa per l'educazione allo sviluppo e Quinoa ci aveva fatto conoscere varie associazioni attive nel campo sociale in Belgio, a Bruxelles e la CREER ci aveva proposto di fare delle visite nei centri di detenzione per immigrati e da quel momento lì, l'anno scorso, sono andata a una riunione dopo l'altra e adesso ne sono dentro totalmente. Quali sono state le motivazioni che ti hanno spinto verso questo gruppo, questa tematica, quindi la tematica del sostegno agli immigrati piuttosto che magari verso altre tematiche? Cos'è che ti ha convinto a iniziare, per esempio, a fare le visite in questi centri? Ma come sempre le motivazioni all'inizio non sono poi quelle che ti motivano ad andare avanti. Forse all'inizio mi ero interessata a questo perché attraverso altre attività che facevo qua a Bruxelles ero venuta a contatto con tanti immigrati in una cantina sociale, un ristorante sociale dove vado ogni tanto a aiutare a servire ai tavoli. E il fatto di sentire le loro storie disperanti e appassionanti mi aveva fatto pensare che poteva essere molto interessante andare a ascoltare le persone che erano dentro dei centri con pochi o alcun contatto verso l'esterno e non sapevo bene cosa avrebbe coinvolto, cosa sarebbe stato per me, che tipo di aiuto avrei potuto portare, ma sì, questo si impara strada facendo. E col tempo, come dopo che hai iniziato a fare queste visite, come sono cambiate queste motivazioni? Cos'è che ti spinge adesso a continuare? Cos'è che ti ha colpito nell'entrare dentro questi centri, nel vedere queste persone? Ma intanto ho scoperto un universo di cui la maggior parte della gente ignora l'esistenza qua in Belgio ma in Italia anche sono degli universi con una legge molto variabile e poco comprensibile e poco rispettosa dei diritti fondamentali delle persone che ci stanno dentro quindi sono venuta a contatto con questa realtà e seguendo un po' di persone che sono attualmente dentro il centro ho imparato tantissimo di come funziona la politica d'asilo, e a parte questo, umanamente sono dei contatti, delle relazioni molto molto forti che devo dire che cambiano le persone che vanno a fare le visite in una maniera enorme e radicale. Qual è la situazione delle persone dentro i centri di detenzione belgi, per quel che hai potuto vedere? In Belgio esistono 6 centri di detenzione chiusi, in cui delle specie di prigioni in cui le persone non possono uscire e entrare durante la giornata, e ce ne sono molti di più invece aperti, come quelli della Croce Rossa, in cui le persone possono uscire durante la giornata e tornare la sera. La situazione naturalmente varia tantissimo da uno all'altro. Quelli chiusi, i centri fermé, sono veramente come delle prigioni. Le persone non hanno nessuna possibilità di fare alcunché. Li svegliano alle 7 di mattina e li fanno andare a dormire alle 10 di sera. Durante la giornata possono guardare la televisione e un'ora di aria possono uscire nella corte al giorno. Fortunatamente dall'anno scorso hanno diritto a avere un telefonino per comunicare verso l'esterno, e infatti è preziosissimo questo per noi, perché per andare a fare le visite bisogna andare vicino all'aeroporto o a Bruges o in altri centri molto lontani, quindi fortunatamente riusciamo a avere contatti invece giornalieri attraverso messaggi o telefonate. La situazione dei centri di detenzione, come descritta nel film che ha avuto abbastanza successo qui in Belgio, Illegal, quindi non è molto diversa da quella che poi è la situazione reale, per quanto tu hai potuto vedere. No, devo dire che prima di andare a fare le visite ai centri avevo visto questo film Illegal e mi aveva scioccato, come penso a qualsiasi persona che va a vederlo, e ero quindi da un certo punto di vista preparata, ma nonostante questo, la prima volta che sono andata a fare una visita ho scoperto che sì, non è vero, ma mostra solo una parte, però è molto peggio. Parlando con le persone che ci stanno dentro, si ricevono ogni giorno notizie di persone, di loro compagni che sono stati picchiati dalla polizia del centro, certi che cercano di suicidarsi, altri a cui vengono negate le cure mediche o l'accesso a avvocati, assistenti sociali. Quindi è la cosa più grave, io trovo, è la mancanza di informazione, proprio l'intrasparenza per cui queste persone restano lì per mesi e mesi senza capire, senza che qualcuno gli spieghi cosa succederà, quando potranno avere una risposta, senza avere un accesso alla possibilità di avere un avvocato d'ufficio. Devono proprio essere persone che lo chiedono in più, di poter avere un avvocato. Come Claire, quindi... La CREAR organizza visite in questi centri. Cosa si può ottenere con queste visite? Qual è il servizio, fra virgolette, che viene dato, viene offerto a queste persone? A parte avere qualcuno che li visita, per gente che magari resta per mesi senza avere neanche una persona a visitarli. E appunto, da un lato c'è il fattore proprio umano, come dici, di avere qualcuno, perché molto spesso queste persone arrivano in Belgio, non conoscono nessuna persona, hanno solo la propria famiglia nel paese d'origine, a cui non vogliono dire della situazione in cui sono, non glielo dicono, dicono che stanno benissimo, hanno un lavoro e così, e quindi hanno veramente bisogno di parlare con qualcuno di esterno per rendersi conto che esistono persone umane anche in questo paese. Quindi avere una comunicazione veramente giornaliera, umana, in cui possono raccontarti. Dall'altra parte, certo, noi cerchiamo di portare un aiuto anche più pratico, proprio, diciamo, legale, per cui, non essendo noi giuristi, imparando le cose a mano, abbiamo però dei contatti di avvocati qua in Belgio, di una rete che si chiama Progress, Questi avvocati possono in certi casi aiutare la persona o per via telefonica o andando a fare una visita, e questo è molto importante anche solo per capire fin dall'inizio se è una situazione che si può risolvere, se c'è una speranza di avere un asilo, se lo richiedono o se no. Quindi l'avvocato, e a volte anche un'altra cosa utile è mettere in contatto con medici esterni dal centro. Ci sono stati casi recentemente di persone che erano state picchiate nel centro in seguito a un tentativo di espulsione rifiutato dalla persona, e siccome i medici del centro avevano rifiutato di fare un attestato per dire che la persona veramente aveva dei colpi, abbiamo mandato un medico esterno che invece ha fatto una...